Sospetto, giunto appena di Russia, gli recava una lettera del fratel Valeriano. Il fratello anche lui! Valeriano! Null'altro! Nulla! Oh, la prova suprema! La confessione sua! Confessa il suo delitto! Confessa! Finalmente! Fate il vostro mestiere! Non un prego! Non un sicuro! Abbiamo un bagaglio! Alla foce della Senna mi attende la nave di Sovento e quello suo lusso! Obbedirò, signora, o vivo o morto! Questa per l'ambasciata sia spedita all'istante a Pietroburgo! Forza il generale Arishkin. D'ogni cosa lo informo. Sarà fatto, eccellenza. Silenzio! È lui! È lui! Andate! La donna vacilla, Albetta, confessa! Mi mando un biglietto a ricordati mio! Io salgo, è uscito, il servo mi lascia un istante, voglio porre al tiretto, è bravo! Che dice? Ti attendo stasera alle 9! Thank you. Yeah. Avete una gran fede. E voi? Non credo più. Ho rinunciato al mondo. Pronto a venire a voi. Che la bella. Alcune lettere direttami a Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Son disceso all'albergo d'Inghilterra. Vado a parlar di voi, salgo in biciclo. Diego, mi cerco. Fianco messa. Sotto cielo! maggio tutto finisce e tutto ricomincia. Non è la prima volta e l'ultima sarà. L'amore è di posso, se ne viene per andarsene, se ne va. Un rapimento come? In bicicletta. Bravo, ti devo reggerò. Tu dove sei? Testolina sventata. Principessa, non son venuto qui per lei. L'amate molto. mia madre, muto è il fratello. E con dispaccio è di mio fratello al cerco. No, di Borov. Hai la grazia! La tua grazia! Figlia mia! Pianta andare! Amore, fratello! O dolce casa abbandonata! Patria! Qui sarò fuori! Mi è concesso a te! E tu mi seguirai! Ma Fedora mia tu paci nella sorte ancor divino farò fieri alla Parigi ogni spesso chi sarà forse giunto e mai smemorato mi scordavo delle lettere e ti verrà precedente questa lettera il dispaccio trionfal del tuo delitto la confessione tua stessa insieme al nome dei complici i miei complici chi sono? Valeriano mio fratello lui o quale infamia quella lettera è scritta da una rossa dimorante a Parigi segno col nome di battesimo, ma la scopriremo, ti recherò la lettera, conoscerò la mia nemica al fin. Iariskin, resto comandò di tuo fratello, Valeriano restato, la fortezza, il fossato, nella notte affogata. Mia madre, madre mia. Morti per me, morti innocenti. Quella bonna, la mare del Castiglio che mi segue sempre ovunque, ma la brema colei perché? Perché Fedora da me ti scosti? Thank you. perdutamente avessi amato. L'avevan fatto mia madre e mia fratella. Forse con te vita che forse per essi prega nella sua cielo rabbia e nel suo Thank you. 里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡布奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Stasera alle nove. Io mi domando ancora. come se tu mentissi dimentichi ancora che mi do la certezza lui stesso lo di mio ecco la prova leggi anima mia la sua scrittura penetro armato deserta è la prima stanzetta vi ascolto un'onda divisa un'onda di baci io rispondo ma Lucia